che ogni volta che ti tocchi col dito un orgasmo simulato ti sei procurata. Donna femminista, non pensi che lo slogan sia solo per te? Una stupida trovata con il dito che fai. L'uomo sciovinista che ti ha sempre dominata, forse oggi è disposto a discutere il ruolo, ma sarà poi vero di donna sfruttata, quindi pensa bene, ti sarai sbagliata con il dito che fai. Mai stata in pochi l'uguaglianza col maschio padrone, vuoi provare il potere con la rivoluzione, con il dito che fai di lavare e cucinare, tu ti sei stufata ed è giunta l'ora della tua riscossa, però stai attenta alla prossima mossa che con le tue mani già ti sei castrata, con il dito che fai. Passato quando ti vendevi per denaro e ricchezza, non pensando al futuro.